voglia lì, hai capito? C'era già gente? Sì, c'erano già una decina di persone. La fotocopia della carta d'identità, il codice fiscale, il conto del quello che ti rilascia, che c'hai del vecchio medico, capito? Del vecchio medico che tuo, il foglio là, che ti ha rilasciato il vecchio medico. Non ce l'ho io quello, l'ho perso. Mi faranno fare una dichiarazione. Comunque le due fotocopie ci vogliono, la carta d'identità e il codice fiscale, quelle ci vogliono sicure sicure, poi è il nome del medico che devi richiedere, capito? E devi portare direttamente già le fotocopie fatte? Stampa, sì, fotocopia della carta d'identità e codice fiscale, oppure patente, va bene lo stesso. Grazie. colloquio di K. Che è K? Vabbè, non lo voglio dire. Non lo so tu, e io. Di supporto, quella roba là, quando sono in due lì le cose vengono molto meglio. Da solo, se succede qualcosa, e chi è che te ne carica? Però non so cosa è successo, ora mi fa chiamare per fatto attracco, la storia mi sa che non so quanto è, ha telefonato domenica, ha telefonato Claudio e ha numero, c'era il numero di Gio Maria, gli ha risposto la figlia e gli ha detto che era ricoverato in ospedale, dunque per sapere come stava e tutto quanto, e gli ha spiegato la situazione, capito? Ciao. Che brutta cosa, vabbè, la successo è fatta. Cosa vuoi ti dica? Guarda, io non lo so neanche dove è ricoverato, però se no ci sarei fatto una scappata, capito? Durante la sera oppure all'ora di pranzo sarei andato a trovarlo, però non so neanche dove è ricoverato. Ciao. Vabbè, comunque adesso se vedo la figlia al policlinico, perché la figlia lavora al policlinico come coso, no? Come segretaria lì dentro quello all'ospedale dei bambini, anzi quando ci devo andare, perché devo andare anche da una autorescia, gli chiedo informazioni dov'è e ci vado a trovarlo. Lasciamo cenare tranquillo Claudio e poi avremo modo di parlarne di questo discorso, dai, no, adesso dovremo vedere un po' dove. Papà, oh Giulia, ma l'importante è che siamo in ora, che sia successo. E soprattutto quello, auguriamoci che è rimasto tranquillo, capito? È rimasto come è caduto, dice che lui è caduto da questo albero alto, è caduto a testa in giù, capito? Adesso gli sono mancate le forze e ha perso l'equilibrio. Mamma mia. E vabbè, cosa vuoi fare tu? Io quando sono persone anziane ti aspetti di tutto, capito? Perché non è come noi giovani che abbiamo i riflessi pronti, capito? Loro hanno una certa età e bisogna rispettare, capito? Però sapendo che questa storia qua potrebbe anche chiamare il figlio e farsi accompagnare dal figlio e farla scema al figlio, capito? Tu non sei più una persona giovane, tu sei di mezza età. Buonasera Antonio Rote. Antonio. Buonasera a tutti e due, ciao Giuseppe, ciao Antonio. Giuseppe, tu non sei più giovane, sei di mezza età, quanti anni hai? Io ne ho 40, 45 a tu. Portati bene, la verità si dica portati bene. Beh, giustamente, è quello che stavo dicendo Antonio Combolo, ho detto se avrebbe chiamato delle persone più giovani, tutto quello non sarebbe successo, hai capito? Sì, vabbè, purtroppo, sai, quando si ha una certa età si pensa che il fisico vada di pari passo alla mente, che rimane giovane. Invece il fisico non ti assiste più, purtroppo capisco. capitano tutti incidenti, no? E sono capitati anche a Antonello di Fusaro, che facendo un lavoro di un'antenna, lo stesso è caduto dalla scala e si è portato il busto per 4 mesi. Molto perciò è andata bene, Antonio, è andata bene, perché a quanto mi ha detto Claudio, come caduto si è inclinato solo 3 costole, capito? Poi adesso dobbiamo fare l'attacco per vedere se non c'è altra cosa, capito? Se c'è qualcosa grave già si vede subito, si vede subito, perché secondo la caduta che fai finisce in sedia a rotelle. È andata, per quello l'ho detto, è andata bene che no, hai capito, no, non sia successo altra cosa, hai capito? Papa di Rogero, ma c'era qualcun altro in ruota? C'era Claudio Sparviero che è andato a fare carica e c'era Antonio Cumbolo. Avanti a tu. Scusate, che tu una quarantina ci sai, vero? Ho negativo, io ne ho 39. Non è arrivato a 40. Vivo l'11 di ottobre. 11 di ottobre di quest'anno, grande festa, siete tutti invitati. Ah, certo. Allora vediamo in qualche maniera. Che problema. Vabbè. Pure tu già. Il giovane ancora, vai. Otto. Giovanotto. Ma invece Fabrizio non si è sentito? No, negativo, io non l'ho sentito. Ma mi pare che Fabrizio più minore di te, è vero? Era Bombolo, non è di cosa, di fracche, ma per cortesia. No, sto solo chiedendo, ma non sto dicendo niente. Sto solo chiedendo. Non si vede che c'ha che è più rincoglionito, già si vede. Che si sente, mamma mia. No, vabbè, a parte di scherzi. Se almeno vale stai chiusa, no? Guarda, forse c'è un paio d'anni in più, dai. Forse mi sembra che ne abbia 41 o 42. Sì, certo. Sì, forse sì. Forse sì. E si è un po' alzata l'età della 27. Prima c'erano parecchi ragazzini, adesso non ce ne sono più, Ma... Ma l'FM ce l'avete tutte e due? Ma 10, però qua mi segna il canale 9. Adesso te ne sei andato al 10, allora guardi, non mi fermo. Whatever. sempre dentro, però quello non si muove più, adesso una bomba sono questi, sono meglio di quelle cagate con la pressione, io non li ho mai potuti vedere, ho tutto da non c'è problemi. E vabbè, adesso lascia, domani o dopo li ricompro e provo a cambiarli, l'ho capito. Quasi tutti io, hai capito, tutti io, e me li sono saldati, tranquilli e fatti. Fammi dare la puntata, non mi dare quelli perché perché già li ho comprati io. Già, io perlomeno io, cioè come li faccio io, si bloccano, non si immagino, si danno neanche di problemi. Vado alla Fugliano e me le faccio dare, almeno 3 o 4 me le faccio dare con il coso, invece di essere bianco lo faccio dare con il coso marrone, capito? Che c'è fa veramente schifo. Ma quelli l'hanno noi, l'hanno. adesso le prendo, vabbè, la do a Claudio e me lo fa lui quel lavoro là di quel baracchino che gli ho fatto vedere, dunque lo mettiamo in scelta quello pure. Posto, non mi ricordo di dove il cavolo era, comunque ci manca una bacchetta, mi manca, per il sito. Prova a indovinare di chi era. Mercoledì mattina, il telefono, microfono e la radio, capito? E lo porto qua e lo vedo io cosa c'è da fare sul microfono, perché se il microfono riesco a farlo andare come quello che ho fatto a Falchetto, che va bene, facendo un miniculio, lasciando il connettore a 5, tu puoi usare quella radio senza cambiare nessun connettore. Ehi, va bene così, va bene. Mercoledì non c'è problema, mi telefono, mi dai, ci vediamo e te lo carico in macchina e lo porti a casa tua. Mercoledì mattina ti telefono, ci vediamo, l'amico me lo va, microfono e radio, e poi chiamo da Giulio, non ti preoccupato, già esci sul microfono, ma magari esci, poi c'è il problema del connettore, ma che prima mi sbaglio tutto, li metto a 4, però prima volevo vedere dove sta il problema, perché fischia, capito? Perché poi là ci sia come quello di Benito, che c'è da fare una modifica. Dunque, siccome lo conosco col microfono, perché l'ho usato, che è quello che c'aveva Franco, funziona molto bene, bisogna metterlo per provarlo. Vabbè, tu comunque mi ricordi, dammi la radio al microfono, così te la sistemo lì. Buonasera. Non so che si è detto, mi sembra di essere un po' e a buonasera a tutti. No, ma io so che invece di fare modificare il coso, non ho detto cazzo, perché può darsi che sia anche qualcosa di rimasto adesso, come è stato cambiato a non a 5 ma a 6, perché a 6 punti è quello che manco 5 su 6 è la verità. E no, non avrei fatto meglio un adattatore, ti ricordi che a coso glielo faccio poi la pattuglia a Falchetto per non stare a non poteva mettere il zoom che le volevano, tu ti fai un adattatore senza cambiare niente, ti fai una pressione con un adattatore e ci puoi mettere quelli a 4 punte normali da una parte e ti un attacco 48, capito Claudio? Quattro ore, capito? Mi ha fatto solo la pittettanica appena arrivato e un'ortopedia, quindi immaginate di nuovo cosa ha sofferto il famoso sicuramente, se c'è una figlia così incazzata. Sicuramente, adesso me l'ha detto Tonino, io te l'ho detto subito, così ho scritto a Tonino, un attimo, e mi ha detto questa cosa, in questo punto di domanda, così è così. Cosa è successo in poche parole? Allora, è successo il quasi il giorno che è successo a me, martedì scorso. Martedì scorso hai detto? Martedì, mercoledì è successo. Da sto dicendo che è una porcheria, dice, una porcheria, capito? È una porcheria, infatti invece da Giuseppe abbiamo chiamato e ha risposto la figlia, capito? Ha risposto la figlia, allora è incazzata niente, no Giuseppe? Cazzo, giustamente, l'abbiamo telefonato domenica mattina, a me è venuto a trovarmi Claudio, dove lavora mio fratello al circolo, e ha detto, beh, ma gli ho detto, ma niente, c'ha detto Maria, aspetta che lo telefoniamo a vedere qua, e ha risposto la figlia, e gli ha detto quella roba là. Secondo da calpestame sparato, Giulia. No, no, se si è girata la scala, se lascia la scala o se si è rotto il ramo, non lo so, non ho chiesto niente. Sa fatto che comunque è caduto male, me l'ha messo male, per il momento è ancora in ospedale, poi si vedrà dopo, si vedrà dopo. Avanti Giuseppe. Vengo io, ti do una mano, tutto quanto, quella roba lì e quella, il cancello, te lo faccio io il cancello, non ci sono problemi. Chi ci ti chiamo qua, là, bomba, allora se c'è bisogno di che qualcuno che ti venga a dare un colpo di mano per tagliare gli alberi, mi dici quali gli alberi sono e te li taglio io, no, non ci sono problemi. No, non ti preoccupare, qua, là, già ti faccio sapere, sì. L'ha avuto fare da solo, e cosa vuoi che ti dica? No, questo non sarebbe successo. Lo so, il problema è che non sappiamo che cosa stava facendo, capito? Perché ti ripeto, io non ho chiesto niente, se ci ritrova, non sappiamo cosa stava facendo, se stava portando qualche ramo, se stava facendo frutta, se era sopra la scala, non lo so, se si è facendo di scala, adesso domani la chiamo, lo chiamo, se mi risponde lui, se è in grado di rispondermi o se risponde lui con la figlia, gli invito a vedere come sta e ne approfitto per dirgli come è successo. E così sappiamo esattamente come è andata, capito? Avanti Gigi. Ah, sai che l'altro giorno ho sentito stavo parlando delle bicchiette, facciamo un mio tavolo di italiaggio a venta. Non si è appiccato all'albero a fare le ciliegie, fanno giù, non si è appiccato all'albero delle ciliegie a fare ciliegie. E perché non hai tempo di spostare, adesso non si sposta nulla, capito? O c'è il frutto, o c'è il frutto verde, o c'è già il frutto del nespole, queste cose così, sono ciliegie. Sì, sicuramente si è appiccato a fare la cariaccia, io di cui si è appiccato a fare la cariaccia, perché le ciliegie sai sono in alto là, e si è appiccato a fare la cariaccia, si è caduto là. Sicuramente è 99%, non sono sicuro, però perché non è tempo di portare, lui sicuramente sta facendo qualcosa di più. Allora, Lucio, allora la scala, come hai detto, tu sei appeso in alto per fare le ciliegie, perché le ciliegie fanno danni alti, se gira a verificare che è caduta per battere, perché diversamente non può essere. Diversamente non può essere. Vabbè, comunque. Ok, la figlia sta fatta che... Quello me l'ha detto che è andata bene, quello me l'ha detto. Quindi non so se c'era qualcuno con lui, se era da solo ed è riuscito a chiamare col telefonino la figlia o la moglie, non lo so. Non ho chiesto niente queste cose perché mi sembrava brutto, insomma. Tutto qua. Avanti, bombolo. Gambo, è bello, giustamente non mi chiede niente, con correttezza. Non so che, insomma, già si sa. Ma sicuramente sto pensando che magari essere appiccato. Abbiamo una scala poco sicura, è cosa, è separato. Non lo so, è questo, con l'egemonia è molto preciso queste cose. È molto precisino, non è buono niente fare la breccia o cosa, è successo qualcosa, capito? È successo qualcosa, era messa male la scala e si è spostata dal tronco, non lo so tanto, però non credo che abbia usato una scala o roba vecchia, perché è abbastanza preciso in queste cose, giornaliere, lo conosco, è molto ordinato nelle sue cose, quindi non lo so. No, ti ripeto, da vedere, da chiedere, adesso chiederò alla fine, vedere com'è andata la situazione, capito? Avanti Giuseppe. Vabbè. Auguriamoci meglio quello, meglio quello che non sia, hai capito, no, il discorso, meglio quella cosa lì. L'importante è che il resto poi sia andato tutto bene. Ma forse io sto pensando anche, perché molte volte succede quando fai, ho gli appoggi da scala sul terreno, si è appena appena, come si dice, che abbia sprofondato appena e magari abbia piegato la scala e si è parato. Sì, dottore, queste cose così, sicuramente è successa una cosa del genere, si è spostata la scala o ha ceduto il terreno dove era appoggiato, insomma qualcosa del genere, non credo che si sia rotta la scala o cose del genere, perché c'è una via effetto molto preciso in quelle cose. Come dice, non è rubato, non mette da parte, non da rampati, da rampati. Ho visto anche se non l'arena, un bel ordinato, ho visto se una scala in alluminio nuova nuova, un'altra in legno nuova nuova, capito? È una persona molto molto ordinata, molto corretta, quindi non credo che sia successa una cosa del genere, capito? È successa così come hai detto tu, sicuramente ho accenuto il terreno, dove era appoggiata la scala stessa, sai come si fa, no? Si appoggia al tronco dell'albero, la parte più alta, e poi si sale per raccogliere la frutta. E sicuramente si è spostata, lui il suo problema è che non l'ha legata, perché di solito quando si fanno queste cose si lega la scala con la corda a qualche ramo o a qualche albero. Lui non ci ha pensato, però ripeto, mi avrei dovuto successo. Ha fatto poverino, insomma, tra il costo della sua età non è un giochetto, e quindi sicuramente adesso lo metteranno al busto, un po' di convalescenza eccetera, e quindi adesso si metterà a posto piano piano, ci vuole più tempo di un giovane purtroppo. Avanti, dici. Positivo, no? E la mostra ci aveva raccontato che era caduto all'albero, e che c'è una tramonta, è caduto già una tramonta, insomma, però non ce l'ha fatto questi bracci, era un poco, diciamo, la tramonta si piace un poco, non ce l'ha fatto niente, e c'è caduto una volta, aveva raccontato, c'era la legna sotto, il bracci, le cose, l'ha mobilizzato, è caduto già tempo fa, era caduto un po' meglio. L'anno scorso, due anni fa, è caduto nuovamente dall'altro. Sì, sì, hai ragione, me l'ha detto anche a me. Sì. Era caduto e sotto avevo appena tagliato, allora prima la potatura e i rami, cose così, e si è graffiato, qualche cosa, però non si era fatto niente. Adesso il problema è che è caduto proprio appeso morto, e poi accaba a terra, capito? Quindi è insaccato. Mi è saccato forte, mi ricordo, non scherza, quindi è andato anche bene, credo a quanto metto la figlia che è caduto di traverso, quindi il peso stesso sicuramente ha toccato le coste, tutto lì, quindi va bene, speriamo bene, comunque già avevo il telefono e mi do notizie. E vabbè, ecco come stavo dicendo, l'importante è che non ci sia fatto niente di, sì, di spiace, perché è successo quello che è successo, però nel male, nel bene, è meglio che sia andata così, cra. Ma quello piccolino da 2 metri, e che da terra e la appoggi a qualcosa, muove sempre legata, muove legata perché oscilla e tende sempre a scappare, capito? È molto pericolosa la scala. Da muro a muro devi ancorarla sotto, in modo che non scivoli, capito? Devi ancorarla sotto, in modo che non scivoli. Se avessi sempre qualcuno che te la mantiene sotto, oppure deve essere ancorata bene. Fossata a terra, in modo che non scivoli, da muro a muro. Quando tu poi attacchi a un paro o un albero, allora lì muore legata perché è troppo pericoloso. Non c'è niente da fare. Avanti, dici. La facciamo a solo, già se la scaccia. Stavo vedendo questa stazione di casa che l'ho preso a pagare, la stanno vendendo per fare un po' di tutta la pelle, ma mi interessava qualcosa di questo, io già non posso fare attenzione a casa che parlano benedetto, mi ha detto sono dei tutti quelli che mi sono di auto, si parla con lui, sono tutti quelli tra gli amatori e che sono gli altri cagliari che mi seguono, qua tratta di no, sono cagliari, infatti mentre ero consigliato lui a questo allenato, lo provo a chiedere a Benedetto, te l'ho detto io, e lui mi ha dato da amici che sono gli amatori che mi seguono. Sono radio antiche pure, ma adesso che sono radio un po' di una certa età, non è tutta, non sono tanto moderna. Però io adesso aiutarti in Cagliari, sono alimentatore, sono fatto insieme, di aiutarti a Cagliari e vanno dopo tanto, non te ne tornerai. Mi ha accennato anche Roberto, l'animatore è morto lì a la zona, sì, sono radio da Camito, che ce ne ho due, io e Bolini non li uso mai, li accendo ogni tanto, roba valvolare, roba di vecchia generazione, per allenatori vecchi che andavano con le radio, ma io ce li ho perché le avevo prese, ma li accendo ogni tanto, giusto per accenderle, non ci sono mai quante ne attaccate, capito? Sono belle da tenere, ma mi pare che quella sia una linea, mi pare l'altro Roberto, una linea Univen che ce l'ho avuta, è una linea Drake che ce l'ho avuta lo stesso, quindi sono dei barragioni, prendono un sacco di spazio e poi devi stare lunga, tira e molla, preaccordo, accordo, ci vuole mezz'ora, andando a andare punto a uno, ti sei accagliato, è roba lunga, devi avere un po' di pazienza, fare un sacco di manovre prima di andare in trasmissione, accenderla mezz'ora prima, non mi interessano più. Se c'è poco le valvole esaurite, le serie tabissieri non si trovano più, devi ordinare al continente, ti costano mi pare 50 euro l'una, se le trovi, poi lascia aperto, non mi interessa. Ce ne ho due, io dicevo insomma il campo lo Yaiso, il Veta B, che sono due barragioni grandi, poi uno l'ho preso dalla Buonanova di Mario Mao, che l'ho preso insomma il campo di R50, che è sempre a valvole. Sono cose belle da avere, da vedere, lui da tenere sicuramente, perché ha passione, deve avere tutto eccetera, ma alla fin fine non va in un padre, capite? È meglio roba, non dico di ultima generazione, ma almeno così, il 240, 440, un 430, insomma, 850, 940, ecco, fosse stato un bel 940 per averle comprato il volo, se 940 è sempre una signora radio, nonostante sia vecchia, però è una radio della Kenwood, analogica, che funziona molto bene, quindi se mi va un accidente, lascia aperto. Avanti Giuseppe, riprendi il vettore e bombolo. Della scala quando io lavoravo nel corso dei traslochi, quella della lista dei traslochi, conosci tu qua, quella che è giù a Padaniera di fronte accorso all'Eurospin della Tuzzi, che il padrone è alle sociale, quello suo via, dove hanno fatto la cosa nuova, via Budapest, e visto lì c'è quel coso del parco, il parco lì, ce l'hanno preso questi qua del mio ufficio principale, adesso prende una mattina quando c'era il coso per andare a mettere i cartelloni per la votazione, no? E mi dà quel, a Santa Maria di Pisa, piazzo questi cartelloni per il coso delle votazioni, adesso mi si rompe un piedino, prendo e ci cado a scheda dietro, ecco, al momento non sentivo dolore, ma nell'domani ero bloccato. Ti è andato bene anche te, ti è andato bene anche te, perché diversamente saresti stato messo male, capito? Non si scherza le scarpe, non si scherza, poi adesso stanno vendendo queste scale che si allungano dalla Ligi, da Bricoma. Ho comprato un mio amico, siccome io devo fare un favoretto per un viale che praticamente sono due piani, quindi 6 metri, arrivare al corduletto che poi è il cemento, dove io posso tranquillamente salire, togliere un tappo, fare il lavoro che devo fare e richiudere tranquillamente, mi fa che siano 6 metri e 30. 6 metri e 30 centimetri, quindi 6 metri e 50 centimetri. Ok, questa scala ha tre elementi, 2, 4, 6. Questa è porpora, 2, cioè bei piedi sotto con l'ancoraggio per i piedi, per bloccare i piedi, quindi un bel lavano, cioè insomma abbastanza tranquillo. La bel porpora l'ha portata, la allunghiamo, avrò fatto, quindi 6 metri, ecco, parlo di 6 metri. Ho fatto la prima rampettina di 2 metri, quindi la prima scala normale. Dopo l'innesto del secondo metro si stava piegando la scala in due. Ma cosa voglio fare per una scala del genere? Cioè ho preso 20 kg, ho preso 86 kg, 85 kg. Ecco, si stava piegando in due, ma dico io farò va, cosa dire, non è scala. Da superare 2 metri questa, ma cazzo non ho voluto a 3 metri, lascia perdere, tu se sali più di 2 metri la scala si rompe in due, ma il minimo è talmente fine che io non ho capito che abbiamo fatto ad avere il collaudo con le scale, secondo me sono state vendute tutte senza collaudo, perché come superi 2 metri la scala si piega in due. Giustamente per queste cose ci vuole sempre il collaudo, perché nel senso un cazzo secondo commerciali può inciampare o per quell'altro ti puoi fare qualcosa, metti male il piede e vedi il buio poi. Ho capito niente perché avete parlato in due, cosa hai detto, dici? Adesso lavora un po' triste quella lì, però perché se la mette più dritta non si piega, però c'è il rischio che si tira di dietro, hai capito? Mettendola più dritta non si piega, e quando tu la conosci un po' di più perché hai paura che ti tira di dietro quando stai salendo, allora tende a piegarsi, però cosa succede? Se la metti molto dritta non si piega, però c'è il rischio che si tira di dietro a te, capito? Io l'ho vista in sicura, cioè non è una scala dove tu puoi dare i 6 metri netti, perché c'è scritto fuso, c'è scritto, non so, mi ricordo, comunque limite massimo 6 metri, no, limite massimo di questo, limite massimo 2 metri, ti sto dicendo come ho fatto la prima scala normale, poi c'è l'innetto e poi c'è il secondo innetto, sono 3 metri, 2, 4, 6 metri. Come ho superato e ho messo il piede nel secondo innetto per salire oltre i 2 metri e la scala Scala, a cosa forse te lo conosci, quello che è il padrone, l'elettrico principale, Gabriele Pettinaro, lo conosci? Ho sentito parlare quello della dell'elettronica fissione, della fissione. Eccolo lì, nel mio elettrico principale, allora io lavoravo con lui. Quando per fare queste cose qui, questi pannelli delle fare le votazioni, quella roba là, ma l'aveva mandato lì in via giù alla Croce, in via Leo Cavallo, hai visto a Santa Maria di Pisa, tutte quelle ferrate lì, ma ha dato questa scala. Ha detto, ma è sicuro? Sì, non ti preoccupare, l'abbiamo appena messo a posto. Ha detto, vabbè, pido il furgone e vado assieme a uno di Ussi che lavorava lì, che il nipote di questo amico di Ussi, dai. E vado insieme a lui e piazziamo, ho detto lo salgo io, ed è perché sono più alto e riesco a metterli bene. Faccio la prima rampa, la seconda, la terza si rompe, cazzo, mi si inclina questa scala, cado a schiera a terra, bloccato l'uomo. Ha telefonato, dice qua, ma c'è bisogno di ambulanza, ho detto no, per il momento ce la faccio, però l'indomani, oi, qua, glielo sa mia madre cosa ha passato a stare cazzo proprio inclinato, proprio bloccato, tipo la quando ti viene l'ennia del disco che non ti puoi muovere, capito? Certo. Ma comunque veramente, cioè bisogna essere molto attenti, perché a volte sembra che compriamo roba stabile, roba molto interessante, eccetera. Però bisogna essere attenti a quello che si compra, perché molte volte andiamo a risparmiare 2 lire, che è molto importante in questo periodo, però poi ci troviamo con del materiale che non è idoneo a quello che stiamo facendo. Perché infatti lui ha detto che doveva riportarla, che lo diceva, adesso non so se l'ha riportata e cosa ha fatto, dobbiamo dirci, uno che abita qua nel mio palazzo, capito? Però è capitato anche l'anno scorso, adesso non ricordo se quando è che ha aperto, l'anno scorso ha aperto, mi pare, dicono dopo 2 anni fa, non so, non ricordo, comunque l'anno scorso l'ha comprato sempre lì al Bicone, un trapano, che della matita, insomma, sembrava chissà che cosa, al prezzo abbastanza ottimo. Questo trapano praticamente faceva la tassellatore, come si chiama, quindi dei monitori, eccetera, ce l'ho anche io, però non è della macchina mia, è della Bosch, ma l'ho comprato da Rosa, è di una materia. Comunque questo non l'ha comprato lì. E si è messo con il martelletto, no? Stava togliendo la mattone del bagno, stava facendo un bagno nuovo, l'ha preso per quello. Mi è uscito un mandrino, l'ha preso al ginocchio e l'ha spaccato il ginocchio, ma ti immagini, cioè mi è uscito tutto il coso intero, mentre stava dura abbassato, perché le mattonelle erano in basso, mi è uscito un mandrino e si è cotto il ginocchio, come stava girando, l'ha spaccato il ginocchio, capito? Ha spaccato il ginocchio, adesso c'è. Si è andata a risparmiare che cosa? 20 euro, 30 euro su un trappano. Vabbè, cosa ne hai avuto? La giuma dice 2 leggi. Per che cosa? Per niente, quindi bisogna stare attenti. Vai, bombo! Ma non sembra strano, perché la matita fa roba buona, non è che non fa cagate. Certamente era rispettoso di questo trappano, se no non sarebbe mai successo una cosa del genere. Non lo so, credo che infatti fosse una partita difettosa, non un trappolo difettoso, proprio un bel po' difettosi, perché gliel'avevo chiesto dopo, e ce l'aveva portato, e l'avevano sostituito, proprio dicendogli di scusare che era un difetto di fabbrica. Mi è uscito il coso intero, tu, dove ne trovavi il punciottino, lo scalpellino, difficoltà la vita di uno, è meglio spenderne 100 e essere sicuro, perché anche quelle scale, ti ripeto, io l'ho vista, c'è l'alluminio molto, noi ce le abbiamo quelle scale, quando scendiamo giù nelle vasche, ce ne abbiamo anche da 8 metri, ma la pedata e l'alluminio è 4 volte più grosso di quello, 4 volte più grosso, i perni che mantengono le aggiunture delle scale sono passanti da parte in parte e sono tra fila da 6, capisci, vanno i congiunturi da 10 centimetri che entrano in vento, come va a fare in pratica per mantenere il raccordo della scala, ma stai scherzando? No, no, no, c'è qualcosa che non funziona. Per dire da Rosa, per ordine Rosa o vai soluzioni, ma sei sicuro quando sali su una di quelle scale? Perché ti ripeto, in quelli passanti delle giunture sono tra file da 6, passano da parte in parte col gancio che poi torna indietro, quindi tutta la pelata è ferma, non si muove. Lì si muoveva tutto, perché non è nessuna foto che non ha cagato, capito? Spendere soldi devi spendere, ma guarda che lì dentro c'è di tutto, puoi costruire una casa intera, lo mattone, vedo di tutto e di più. Però giustamente magari lui l'ha pagata due citti quella cosa ed è come è. Però se tu prendi, ci sono anche quelle che costano un bel soldi lì dentro, perché io ho visto le scale. Vedo che costano un bel. Giustamente non saranno come quella lì, no? C'è di tutto lì dentro, c'è di tutto, c'è la roba più scarsa, la roba più buona, la roba di mezzo e tutto quanto. Ma già penso ci sia entrato, la voglia, c'è di tutto e di più c'è. Sì, sono entrato. Però ti ripeto, non ho mai comprato cose molto, molto costose, dai. Non te li ha per fare della voletti così in te, niente particolare. Ah, che c'è? Comunque, stamattina sono andato all'autorexa e mi ha detto tutto a posto, solo mi ha confermato quelle pastiglie per la cosa, ho capito, quelle là, quelle che mi scippino la mattina per la pressione. Beh, quanto ti ho detto di prenderne? Allora, lei me ne ha segnato due scatole e mi vuole vedere all'altro mese, hai capito, due scatole da 14. Dunque, però mi ha controllato la pressione, cioè avevo 135 la massima e 81 la minima. Piano, ma quante ne prendo al giorno? Una sola? Sì, una sola la mattina dopo colazione, capito? Dopo colazione mi ha detto una la mattina e basta. Lì da solo con questo coso qua. perché ormai non ce la faceva più, ma ormai non c'era più con la testa, Io veramente due volte sono andato sì che non c'era più con la testa. Io mi sono trovato bene, sono 3 anni, come con Mario, capito? Mi sono trovato di tu. Un mare di anni, non so, lo so Nicola, ma io pensavo che ci fosse un sostituto temporaneo, giusto per dare il tempo ai pazienti a fare il cambio del medico. Invece io non ne ho avuto mai tempo, non mi sono mai preoccupato, la verità, me l'ha detto Antonello. E sono andato a vedere che te ne chiuso dal 27, c'è proprio il cartello, dottore Mario Lai, è andato in pensione dal 27 di marzo, tanto siamo a giugno. Mi dovevo organizzare prima, la colpa la mia sicuramente, però adesso mi serve questa impegnativa per il 10 e quindi devo andare per forza domani a fare il cambio al medico. Ce l'ho già al medico, io non ho problemi, però deve risultare, capito, perché mi serve l'impegnativa per andare all'ospedale il 10 per la fasciatura, altrimenti devo pure il ticket. Invece ci vuole l'impegnativa e siccome sono un infortunio non farò niente. Signore Belli, sono fatte già le 11:15, me lo vedi, là. Io vi saluto, vi auguro un buon 144, vatte tra, una buona mattinata per domani, vai presto di là, infatti ricordati di portare quella roba, quelle due fotocopie, il codice fiscale, e noi ci sentiamo mercoledì per quella questione là, dai. Io faccio quelli di perché domani mattina le 7 vengono troppo facilmente. Giuseppe, d'accordo. Ma ho sentito Gianni, ma tu che? No, Gianni, non so, si sarà ascoltato di qualche canale, sta parlando con qualcun altro, non sento, perché sento le risvolte, hai capito? Non ti ho sentito, va bene, ok, d'accordo, ci sentiamo Giuseppe, dai, stiamo bene, avanti, bombola. Ma ciao Giuseppe, ce la risentiamo domani alle prossime, c'è problema, con Giulia, se volevo dire una cosa, è meglio così complicato. Già ci vediamo verticale a Zola, non c'è problema, dai, già ne parliamo a voce, non c'è problema. Calma, no, volevo dire una cosa, Claudio, ma mi sto verificando. Cosa? Quanto? Se mi viene in mente già te lo dico. Va bene, non c'è problema. Stasera, freschetto, sì, freschetto. Ma, ecco, a me mai una cosa, a proposito, te la volevo domandare, ma dici che si è parato in un posto nero, vero? Molto nero, sì, molto nero, ma Pasquale di acqua pulita, Pasquale un sedimentatore, già il processo finito, quindi già sedimentata l'acqua pulita, colorata, tutto, capito? Non ne abbiamo quotidiani noi, no? Ma, boh, anche a qua ha detto che sei imparato, io te lo dico in pulita, ma ti ha mai compreso la pulita? No, adesso sono nella merda perché non mi posso muovere, ma sono caduto nel pulito, un po' tranquillo. Qualcuno ha voluto scherzare su questa cosa, ma è andata bene, se fosse stato vuoto non te l'avrei potuto raccontare, siccome era pieno d'acqua, quindi è andato tutto bene, dai. Mamma mia, ti sei parata a voce. Beh dai, io vi stavo ascoltando, dai, ciao, buonanotte a tutti e due, dai, ciao. Ciao, Giuseppe, ciao. No, è acqua pulita, l'acqua pulita, l'acqua che era già pronta per arrivare, capito? Quindi l'acqua pulita non si può bere perché è trattata diversamente dal potabile, ma è acqua pulita. Ma comare, piatto. fare e tutto c'è svegliato. Normalmente avevo preso, non riuscivo a muovere qua, tanto pensavo che sia tutta la frattura e era ancora peggio. Però non più di tanto, dai, non più di tanto, perché mi hanno subito soccorso, tirato su, aiutato a salire, praticamente non tirato su, aiutato a salire, poi ho dato l'ambulanza, sono andato a Sassari e mi hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Ho sofferto di più all'ospedale, ma ho lasciato 4 ore fermo prima di mettermi a posto la spalla, e nel momento in cui sono caduto, che sono risalito diciamo quasi da solo, mi hanno buttato una fune per avvicinarmi a un letto per poter salire, ma insomma è tutto il letto, dai. Dal carrozzetto. Quando viene è tutta occhio, cioè mi ha detto che fa le cose, no? Sì, ma c'è proprio un avverso che lava le mani, le pulizie e tutto quanto. Sì, io ho cioè mi ha detto che pulisce le macchine, insomma, che fa tutte le cose senza problemi. Uno di noi stesso, no? Se sta lì, però, ed è detto a queste cose. Perché anche prima di tutto è roba degli altri, circuito di più usare bene, perché anche un po', cioè, come un'estetica, cioè come un, devi essere anche una persona coerente, che devi usare bene il mezzo e non devi avere nessun problema, perché è educazione. Questo dipende per il mio figlio, c'è un altro locale, comunque, quello di cui dovrà fare. No, no, no, non lo penso tutto. Il lavoro vanno tenuti bene, anche se non sono, se non sono i tuoi, perché io esempio ce l'ho in affidamento, quindi firmato, e devo stare molto attento, nonostante le macchine abbiano una situazione coperta al 100% per la casco, ma non è che mi può approfittare, capito? E quindi adesso che sono a casa, ho fatto un foglio e ho passato la macchina sotto la mia responsabilità ad un altro collega. Finalmente ce l'ho sentito io, capito? Nel momento in cui adesso ce l'ha lui, il responsabile della guida è lui, però la macchina ce l'ho sentito finalmente io, capito? Bisogna stare molto attenti a queste cose, non c'è da giocare, per cui l'azienda una volta ti può anche perdonare, la seconda come si accorge che tu della macchina per il tuo, te la piglia e la perdonate. Ce l'ha il mezzo, lo devi usare bene, cioè, per usarlo male, cioè, meglio niente, cioè, però come che si usano la misura tua, la stessa cosa, perché anche una cosa, una forma di, cioè, quando tu usi le cose bene, è una forma di professionalità, di rispetto verso l'azienda, tutto, è l'educazione anche, secondo me. E invece di vedere un praticamente che ha in figlia, che ha bisogno di manco mese non per più macchina, tutta crepata, aiuto dai, e quella è cosa da fare, sono. Però sotto, però non tutti siamo uguali, capito? Non tutti siamo uguali. Molto spesso succede che c'è del benefregismo totale, dove la gente pensa che tanto è la macchina non è la mia, la siamo a tutti, e quindi la adoperano in una maniera diversa. Però fortunatamente esiste ancora della gente che la macchina la usa in un certo modo, come me, come tanti altri, e quindi, capito, devono succedere queste cose, perché le macchine che l'azienda le pagano, perciò se te la danno non è che sono obbligati a dartela, perché non sono obbligati a darmela a casa, me la danno perché sanno che io la uso bene, la tengo come che sia la mia, ma molti non ce l'hanno a casa la macchina perché non sono affidabili, capito? C'è bisogno di portare in officina, lo porti in officina, cioè, rispetto tutto quello che devi fare, le gomme, quella, quell'altro, cioè, non devi trattare la cosa, quella cosa non è quella roba di cane, è tutto. Poi anche per un coso professionale, ma è certo che devi, cioè, chiede magari un passaggio intelligente, qualcuno di lì, cattiva della macchina così, come minimo ci si macchina, cioè, se ti chiede un casino. Lo so, che cosa ci vuoi fare? Ma sai che conduto, uso 10 minuti, uso il 440 sul passero, 140 e così lo spendo un pochino, che è bello, bello caldo. Passo col 440, non mi tempo di commentare. Eccomi qua. Meglio uguale. 15 minuti, e poi me ne vado a mamma, siamo passati con questa qua, già va bene, riesci a vedere il vatti. I watt sono 20, dai, 20 watt che vanno bene, 20 watt. Già passano. Il gioco potrebbe andare a metà, hai visto? Sì, ma voglio che basta. Basta, per fare voi chiacchiere in città, allora, ho bisogno di puntano, poi quando c'è bisogno di aumentare, si aumenta, capito? Ma per il momento non c'è problema, va bene così. Cosa stavo dicendo? Non ho capito quella placca che hai detto che manca in quel microfono. Non ho capito qual è la placca che manca. No, io non l'ho mai aperto, dico la verità. Dopo nel momento che me l'hai dato, tu mi hai detto, mi manca una placchetta, mi manca. Mi sembra che me l'hai anche data, però adesso non me lo ricordo più. Dove cavolo è? Ma è con senza le parole, dici che ne abbia bucata, non so buona cosa. Però non so dove cazzo ne si è uscita. Non mi ricordo, Anto. Sinceramente non mi ricordo. Non mi ricordo questo particolare. Capito? Non ricordo questo particolare. Adesso bisogna vedere da dove è uscita la placca. Comunque mercoledì Giuseppe mi dà la radio, me la porta lì da Nico. Lo do un'occhiata. Vediamo perché fischia, intanto bisogna sapere perché questo benedetto microfono fischia. Dopodiché se ci va a fare qualche modifica si fa. Altrimenti un video di un culo a vaccone e mi attaccano di quelli che ho io. Hai capito? Io ti sto dicendo queste due parole che mi hai detto tu. Che mi mancava una placchetta da dentro il microfono. Quello io non so da offre. Hai capito? Qualche placchetta che sarà stata appoggiata nel circuito, una cosa, non lo so io. Però io sto così e così ti sto dicendo. Adesso vediamo, una volta che poi lo apro e vedo un po' com'è la situazione, perché non avevo capito anche questo microfono. Dice che fischia sempre, che è sempre in avaria. Siccome uno l'abbiamo già messo a posto, anzi l'ho messo a posto, che era quello di Falchetto. E adesso vediamo come quello lì, se che cosa c'ha, se è stato toccato, se c'è qualcosa che non va. Ah, io ti posso garantire che noi non abbiamo toccato niente in quel microfono. Montato sì, ma toccato no. Quello lì tra l'altro mi sa che è anche modificato. La modifica gliela avete fatta voi. Che sia franco, che tu non lo so, io queste cose non lo so, perché la verità non l'ho mai aperto. Però dice che è stato anche modificato per più YouTube. Sì, era stata fatta perlomeno quando c'era franco una modifica che si fa ai microfoni, capito? Che si fa quei tipi di microfoni. Poi non lo so. Io rispetto a me me l'avevo data a vendere quella roba, e così come me l'ha data l'avevo data a Pierpaolo, sia il telefono che il microfono. Però quando ce l'aveva lui usciva molto bene. Poi non so chi mia, ma mi pare che tu non me l'hai detto che era tuo, ma io però me l'avevo immaginato. Claudio, io? Ascolta, ma c'era per caso sotto il tappo della... dove c'è la batteria, che mi ricordo io, poteva essere quello. Col tappo già c'era, mi sembra. Mi mancava proprio qualcosa all'interno, se non me lo ricordo tu. Non me lo ricordo proprio, sinceramente parlando non me lo ricordo, guarda. Non me lo ricordo. Perché quando gli ho dato io a Pierpaolo era nuovo quel microfono. Era nuovissimo, guarda, l'impatto, poi Franco ci teneva moltissimo quel microfono. Non so che cosa mancasse. Magari te l'ho detto così perché me l'ha detto lui, ma non mi ricordo che cosa. Ma non lo so, insomma, la cosa. Ma non lo so. Non lo so proprio, guarda. A me poi te lo guardi tu. Caffa. Ma mi sembra che ti stavo dicendo che mi sembra che non me l'avevi manco detto tu che era tuo, Maracchino. Che era di Franco? Chiappa. Boh, non me ne ricordo, cara. Ma io già sapevo che era il tuo. Sì, io non avevo di paese, io ci avevo il 2009. Che mi pare l'hanno dato lo stesso, per fare no. Chiappa, l'hai venuto a me. Esatto, solo quello lì era il mio. Il 2009, poi il Typhoon era di Franco, con l'MB più 5, che usciva molto bene, veramente molto bene usciva con la radio, usciva molto bene, e me l'aveva dato a me, ha detto lì se riesci a vendere, ha fatto la volta più paro, ma ha detto sì, mi interessa, me l'avesso, gli altri dico io, infatti poi se l'aveva preso lui, capito? No, io non ne avevo di quei baracchini, c'avevo solo il 2009, a quel tempo via Pasqua c'avevo poco posto, mi pare c'avevo quel baracchino lì, il 140 e l'S9, e poi l'S9 l'ho dato a Gigi e mi sono ripreso un altro 140, capito, che ce l'ho, che è quello che stavo parlando poco fa, sempre quello. Mi ricordo anche quando me l'avevi venduto. Vabbè, qua non lo dico, ma me lo ricordo, Sì, sì, me lo ricordo anche io. Vabbè, già me lo ricordo comunque. Me lo ricordo perfettamente. Ma c'era un dirigente attaccato a quel baracchino, Franco non voleva mai dare, poi... Quando si è preso il... ho fatto avere il C80, che era il mio, e ce l'aveva sempre dentro l'armadio. Ma che non te lo vendi il baracchino? Ma cosa ne vai dentro l'armadio? No, ma vendi, te lo vendo. Dalla me che te lo vendo io. E me l'ha fatto a me. Infatti quando gli ho detto, oh, mio, ti ho venduto il baracchino. Mamma mia, gara, ma non potevo aspettare. No, Giuseppe sta nulla io. Ho trovato un amico e gli ho fatto. Non sapevo neanche che inizialmente ce l'avevo dato a te. Lo sapeva saputo dopo. Sì, l'ha saputo dopo. Infatti a te meno male l'ho dato a gente tranquilla e te allora che la gioia. Pur col baracchino lì, già lo sai che trauma tu l'avete d'accordo. No, ma già. Sì, io lo so, sì. Io lo so. Andrei. Buona. Com'è? Gaffa, buonasera, ho appena finito di cenare. Ho appena finito di cenare ieri. Sono d'accordo, tu la mangiai. Io invece ho finito adesso, infatti c'è Daniela che sta lavando i piatti. Non è mamma. Cos'è? Le fave. Allora le fave dopo, a tu. Hai capito? Allora ci vediamo. Vediamo qua, fa fritto adesso il cenare. Io ho cenato che era un buco 9:10, 9:15. Allora, 10 meno 20 proprio, e poi sono rientrato qua. Allora Massimiliano, sei salito a Sassari? Aspetta un attimino che io ti prendo un casino. Quanti mai e fanno i casini, come sempre, con la sicurezza Gaia, sono brutto. Va bene, va bene. E che differenza c'è dal vabbè, 2009 ce l'avete sempre, però no, tanto l'avete dato quello. Quello è sempre, l'abbiamo sempre. Lo dico, il TAR-23 è una bomba, quello ce l'abbiamo sempre. 87 è una bestia, quello di spinge più del Saito. 87 ce lo conosci, è quello uguale come quello che c'ha qualche. Sì, lo conosco. Ma li ho sentiti tutte le radio che c'ha più Paolo. Anche il Python ho sentito, modificato, funziona molto bene. 87, 48, ce li ho sentiti tutti. Vanno tutti alla perfezione, tutti. E poi lui è come me, una volta che ce li hai, poi a darli, mi rotto le palle. Io ce l'ho 48, è una bella bestiolina lo stesso, poi con l'amplificatore quello grosso, è una cosa allucinante. Oh, come fai a usarlo in città? Sì, puoi fare ogni tanto qualche passaggio su 45, di Gugliatti, però prende un bel di colpi, un bel, capito? Prende un bel di colpi. Guarda, la KB23 con il panel P3, che è una radio stupenda, non sento la mosca volare, guarda, sento leggermente il fruscio di Antonello, ma perché ce l'ho attaccato, se lui è sul 5 io sono sul 10, capito? Ma del resto di quelli un po' più distanti non sento assolutamente niente. L'Alan 48 è una cosa allucinante, si intende mitra gradienti. I camionisti che passano lì all'uscita delle gallerie, io sono sul canale 10, mi splatterano dal canale 5. Ma ha sbraccio un po' di notte una volta, voglia un 48. Anche l'altro, non mi ricordo come siamo lì, come siamo di tre canali. Come di tre canali, no, non mi ricordo quanto ne ha. Ma dopo questa cosa. Molto, ma poi ricordi come stavano i ricordi da una parte e dall'altra, un casino, ah, noi l'abbiamo tenuto un poco di Alan 48, perché proprio qua ci facciamo uscire in testa. Ho ripreso. Io Massimiliano, d'accordo. Tu se te lo sto dicendo, è una cosa allucinante, no? Non si può, io guarda, su tutti i baracchini che ho, l'unico che prende colpi è l'Alan 48. Non si può tenere così da casa, capito? Anche perché sono in una posizione dove ho tutti, sembrano lontani ma sono tutti vicini, quindi non fa. Mentre gli altri, Royce non ne parliamo, Royce non sentiva ancora mosca volare. Lino Hit, Basel, Coso, ma la KB23 che è proprio un baracchinetto da due lire che mi ha regalato Gigi, quello non senti niente, assolutamente niente, infatti è quello che uso molto più di tutti, capito? Avanti Massimiliano. Ehi, a positivo, là. Stavo fermando un pochettino la tigre qua che se ne sta uscendo il sangue dalle vene. Sì, sono salito a Sassari, fatto la commissione, sceso alle 9:30, ecco perché abbiamo cenato così tardi, capito? Positivo. Ma chi non si è addormentato ancora Gaia? E ancora 9:30 notte o l'una, no? Su Maria Gara, ma è la che non si esatta. Allora lei se non è minimo è deve essere almeno mezzanotte, ma proprio deve essere mezzanotte, se no è da non sarà voce. Saluta Claudio. Mia, va, dai. Gaia. Ciao. vocali, gliel'hai dette. A-E-I-A-U. Hai capito. Ah, anche le vocali sei adesso, eh. Allora ci dormi. Ciu, ciu, ciu, ciu. Ah, tu, a mano si non andrà più da ovvio. Da cui scende? Io sto andando a giocare, noi ha detto, io sono andato a fare un anno. E vabbè, tempo suo, cosa devi fare? Casino, come mi ascolti con questa radio, Antonio? Segnale radio, com'è? No, il segnale 9.5. La radio è buona, stai usando 4 watt normali, vero? Sì, sì, positivo, radio omologata a questo. 4 watt di suo, di cosa? Di baracchino. Ciappa, pure io 4 watt normalissime, ci abbassano. Positivo, positivo, vanno bene, vanno bene. Quando non c'è QRM fare una chiacchierata va benissimo. Claudio, per te l'antenna, microfono e poi non lo so cosa vuoi prendere. Anch'io metto A. Allora, numero 10, poco più sotto di 5 non lo metto, a 10 watt, guarda, lo dico una guardia, 50, cosa vuoi mettere? No, questo radio è un casino, ho provato mille volte a usarle basso, basso, basso, ma al picco di modulazione sale un bel, capito? Vabbè, quelle lì sono così, claro. Queste più di 4 watt non vanno, ma non sono omologate, quindi le lasciamo così e va bene. Quella è una cosa diversa. Vabbè, però è una cosa che non va bene, perché se, cioè, se uno la vuole usare per dire a 5 watt, non è mai a 5 watt. Con tutto il potenziometro che c'ha, te la regoli come vuoi. Invece la metti a 5 e salta a 30-40. E quindi non è come il discorso che avevamo con Valerio l'altro giorno, con gli Alghieri. Capito? Stavo facendo le prove con Franco e diceva, ma io ho 4 watt, voi anche io metto a 4 watt. Come ti pavidava da 7 se ne andava a 9. Ho detto, ma come mai da 7 vai a 9? Perché c'ho picchi di modulazione da 4 a 100. Dimmi in affutto. Cazzo, aspetta un paragone. Vabbè, quelli sono i picchi di modulazione, però... allora, in poche parole, i picchi possono salire un po' da 4 watt, ma non a dentro. Sì, ma lui c'ha un baracchino tipo quello che ti ho fatto vedere a te, tipo quel Galaxy con l'elettronoshop, la serie da 200 watt, capito? Un baracchino del genere, cioè. E quindi dice non riesco a regolarlo qua, perché se io lo metto a 4 watt, a 5 watt, ha questi picchi di modulazione allucinanti. Ecco perché notavo questa differenza, siccome tra l'altro Franco abita verso la Siesta, quindi è una zona molto molto alta, lui abita leggermente più sotto, e lo capivo come mai mi arrivasse più forte Valerio, e la differenza era quella, che praticamente loro hanno diversità di potenza, tutto lì. E quella è una bella radio, Mitra, cavolo, quella funge. Però non ce l'ha Giovannino uguale. No, lui non ce l'ha Giovannino uguale, è ancora diverso quello di Giovannino. Quello di Giovannino c'ha il frontale tutto nero, capito, con i pomelli cromati. Questo mi ha detto lui, la versione era 200 watt ed è simile a quella che ho fatto vedere io a te, che era qua, capito? La versione è così, che praticamente sotto la pancia della radio c'è il lineare attaccato sotto, cioè un lineare da 200 watt, e quindi monta praticamente quattro finali accoppiati per poter portare quell'amplificatore lì. Insomma, minchia, ma 5 dice mi dà picchi di modulazione a 100, e allora non si fa così pagare, così non si fa. Tu devi usare 4 watt fermi e poi vedere un pochino che arriva meglio, perché stavano facendo le prove, mi stavano chiedendo dei controlli, c'è scritto di stabilizzarle ad una potenza minima, c'è sempre il picco di modulazione molto alto, anche senza toccarle, anche senza toccarle, sono così, capito? Positivo, dai, vabbè, quelle lì sono così, no. Ma anche il nuovo S9 mi sembra che sia intorno ai 175 watt, una cosa del genere, e c'è il lineare sotto come quello del Galaxy, è tutto lineare, hai visto, 175 watt, là. Quello lì c'è, Valerio, quello lì, l'S9 175, modello 175, quello lì. Sotto è tutto, allora dove sotto è tutto lineare è tutto dissipatore, tutto sotto è tutto così, è bella, la radio è bella, sembra viene intorno ai 500-600 euro, una cosa così. Non ci vediamo alla fin fine, che ci ha capito, bellissima sicuramente, senza disprezzare niente, perché sono delle belle macchine anche quelle, sono radio americane, hanno sono di un certo livello sicuramente, però per me è sempre un baracchino, per avere quello che vuoi, su quel prezzo lì io preferisco prendere un HF, intanto un HF 500 euro, puoi comprare un bellissimo 850, li apri leggermente perché sono radio, come sappiamo tutti che una M non è che possano dare il massimo, però sulla modifica che abbiamo fatto io e Fabrizio hai un potenziometro utile di 150 watt, quindi alla fin fine però hai una sintonia continua con un altro sistema di ricezione, capito? Niente da dire, per carità, perché io quello non lo conosco, io l'ho avuto, le sono un'ottima radio, c'è una bellissima ricezione, però per il prezzo che costa preferisco sempre fare il mio discorso personale, che è quello di comprare roba più consistente, ecco, sintonia continua. Io te l'appoggio, Cla, così è così, sì, per quella cifra è meglio una radio del genere, capito? Non hai bisogno di niente, ti metti quella, ti metti un bel microfono e sei a posto. Antonio, vai che tu sei in parcheggio. Scappa. Quello lei, come gli attacchi funzionano bene, diciamo che anche sono scelte, insomma, magari uno vuole avere qualche cosa di professionale così e a uno gli piace le cose così differenti, gli piacciono altri tipi di radio, diciamo che sono un buon sistema anche, dipende. Tanto dopo vai su Facebook, entra nella mia bacheca e guarda quelli alla 48. Ah, due sono. Cosa mi è? Della Delta Mike solo. Ma io qua, rifatti questo profilo. Ci sto pensando, però faccio le porte chiuse. Adesso sentirò Salvatore se posso mettere una protezione per non far entrare nessuno. E dare praticamente la chiave d'accesso solo a chi ho come amico, capito? Confermato come amico. Perché sono diventato un troiaio come la prima. Non mi va, adesso devo sentire Salvatore che lui è molto molto preparato in queste cose, se riesco a fare un profilo a livello personale con quelle poche amicizie da mettere dentro e dare solamente la chiave d'accesso a chi dico io, vabbè, diversamente non lo faccio, Massimiliano, non mi interessa. Lo puoi fare tranquillamente, hai capito? Lo puoi fare tranquillamente, questo che dici tu, ma tu da solo lo puoi fare, non c'è bisogno di Salvatore, di nessuno. Io ho tutti bloccati, nel senso, chi non è amico mio, la mia bacheca non la vede, capito? Se non è amico mio, non la vede assolutamente, è tutto chiuso. Cioè, in poche parole, la vede solo ed esclusivamente chi è nelle mie amicizie, e basta. E niente, Cla, amicizia, non la vuoi accettare, non lo accetti, chi non è amico, quello lì lo escludi e basta, ti metti solo chi vuoi tu, hai capito? Ma anche perché la sera al limite non vedi nessuno, al banchino, ti metti lì 10 minuti al computer, ti guardi due cose, due frottate, ti scambi due chiacchiere. Non vedi nessuno, io sono tra la sera, radio, sono tra la sera, sto parlando. Sono entrati un dirigente. Non è quello il problema, è che se magari non hai voglia di parlare, ti butti sul computer come facevamo prima, tutto lì. Facciamolo Massimiliano, non è un problema, facciamolo, però ti ripeto, prima era una cosa un po'. Non mi piaceva molto, capito? Non mi piaceva molto, vabbè ci avevo 800 contatti, quindi. Però adesso se lo faccio molto ristretto, con le poche persone mi riprendo quelle persone insomma che c'erano prima, massimo una ventina, non di più. Ricco Costanzo, Luigi, insomma, Giovannina, tutta la greffa delle modulatori puro sangue, li rimetto dentro. E poi quelli, insomma, tu Antonio, quelli, insomma, che ritengo e basta. Se però io non mi ricordo che cosa, mi era libero, capito, entro via in Butto, Balbana, i Basiani, i Ravani, quindi io non voglio che succeda questo, perciò sono tornato a letto che c'è una chiave d'accesso che tu puoi dare direttamente tipo una password, capito? Direttamente alle persone che tu ritieni che possano entrare, vedere anche la tua bacchetta, le tue cose eccetera, le tue foto, perché ne avevo un bel, adesso non so se si possono recuperare quelle foto, non so, comunque la rifarò anche la foto della stazione e tutto. E niente, se è una cosa fattibile così, Massimiliano, la faccio. Mia, che si può fare, tranquillo, si può fare. Io ti ripeto, chi non è amico non vede la mia bacchetta. E poi quando chiedi l'amicizia, se non conosci non la accetti, capito? Si può fare, tranquillo, guarda. Antonio, riprendi. Eppure io mi sa che non metto la protezione per non vedere certe cose. No, cioè uno chiede l'amicizia, se mi chiedo, se no ignoro, vai dimmi una parola. Adesso io ne ho 10 in sospeso di amicizia, forse bisogna di 2 mesi, no, io non ho accettato, non li conosco. Una ragazza mi ha chiesto l'amicizia, mi ha detto che stava cercando amici per su Facebook, ma io adesso li conosce, e non io ho accettato. Molte volte bisogna stare attenti con queste persone qua, anche non si sa mai che si conviene dei guai. Bisogna vedere anche chi è. Aspetta che ti faccio entrare. Riprendi il numero, un attimino che faccio entrare la gatta. No, fa casino. Vuole stare vicino a me. Ehi, non si è trovato in bianco, sia che vuoi entrare qualcuno. Ma ci vediamo quando hai un calma e vieni qua, lo attiviamo di nuovo. Lo attiviamo, non c'è problema. Lo facciamo così. No, ma mi ricordo che Salvatore mi ha detto appunto che siccome mi ha lamentato per il fatto appunto che avevo sempre il cazzo, mi accendevo il computer, c'erano, io dico, ogni giorno 50, 40, 30, a volte anche più di 50 messaggi, perché poi tutti i messaggi che andavano nella bacchetta mi andava in automatico sulla posta elettronica, capito? Cazzo, non accendevo il computer che andava a vedere la posta, minchia, cazzo, 50 messaggi di Facebook, ma vaffanculo, tutti a leggere, a cancellare, a fare, c'avevo sempre il computer incasinato, sempre, mi sono rotto le palle e ho cancellato tutto. Ho bloccato tutto, non ho cancellato niente, ho bloccato tutto, quindi è bloccato. Capito? Ho bloccato. Allora adesso lo faccio con un altro sistema. Lo faccio con un altro sistema. E così va bene. Quando poi vieni ci mettiamo una sera, lo riattiviamo a Massimiliano. È positivo, qua, positivo, e lo rifacciamo, là, è una cazzata tanto. Ma voglio rosa! Aspetta un attimo, ok, giro rapido, attacca uno. Ma ce l'hai fa, ti attacca l'uomo daniera a te. Quando vedo gente che non conosco non accetto nemmeno. No, ma io non è che non li conoscevo gli 800 contatti che avevo, per carità. Persone che ci conosciamo di vista, molte ci conosciamo dall'infanzia, eccetera, eccetera. Molte l'ho chiesto anche io, l'amicizia me l'hanno data, persone come il sindaco di Castelsardo, Corvo Torres, Laero, Nulvi, Serini, Bulzi, Valedoria, Santa Maria Colinas, qui ce l'ho tutti, tutta roba del comune, della regione, eccetera, ma l'ho chiesta io perché ci conosciamo, li conosco, e quindi andava bene così, e poi non hanno mai avuto nessun problema, qualche contattino così, qualche scambio di eccetera. Il portatore se ne aveva un mare infinito, vecchi proprio di vecchia data, di quando ero ragazzino, ma molti erano persone che proprio manco salutavo, quindi però conoscono di vista, ti vedono di anni a tizio, ti chiedono amicizia di Radale, ti chiedono amicizia di Radale, alla fine è diventato un troiaio, capito, tu? È diventato un troiaio, e quindi tutti che ti invitavano ai giochi, e tutti che ti invitavano qui, e tutti ti mandavano email a pigliare in curva, e alla fine mi sono rotto le balle e ne ho staccato tutto. Mamma, ma tu vuoi fare la capo, ma mettiti quelli che vuoi sulla tasta, cosa fai? Ah, esci di gamba, fra questi gambi di casine. Ma va che fai tempo che sei a casa? Ricordati di farmi quella domanda a caso. Che puttana, Cigliai, se non me lo ricordi. Se non me lo ricordi. E devo anche preparare tutta la documentazione per Roberto. Capito, così gliela spediamo a Cagliari e Ciccia, che me l'ha detto anche l'altro giorno. Adesso io con Fabrizio, dopo questo esame, mi prepara tutta la documentazione, che è un suo stampante, e così gliela spedisco a Roberto, capito? E ne approfittiamo e facciamo anche la tua. E poi la tua è una trozzata, perché quella che ho seguito più L, non ce n'è di roba stampata, capito? O se c'è, non te ne affrutti nulla. Prendi un foglio in bianco, in alto scrivi Sassari, la data, il tuo cognome e indirizzo tuo, e poi come oggetto scrivi richiesta di concessione e autorizzazione se vuoi più elevata. E scrivi io sottoscritto, nato A, residente A, codice fiscale di Bumba, chiede che mi venga concessa l'autorizzazione per l'uso e la detenzione di radio riceventi in ascolto sulle frequenze vita terra di Mattura, cosa c'è, capito? Come SWL, in attesa di un vostro riscontro, distintamente saluto, appunto, batto la firma, mette la data e gliela spedisci. Raccomando, ho ricevuto il ritorno, avevo nulla a farla, capito? Una richiesta e stai facendo. coronavirus, carta bianca, l'ha fatta così la richiesta, da quando ho ricevuto il ritorno, mi ha messo letto una marca a bollo a 14,22 mi pare, centesimi, che comunque la marca a bollo, tu la macchina non ce la pari, una marca a bollo, e te la danno a 14,22, una cosa del genere. La metti dentro, non ci vuole la foto, non ci vuole un cazzo, cosa di una frutti? Niente. Mi pare che, boh, non so se ci vuole la fotocopia di un documento, ma gliela puoi anche mettere dentro, se non le serve, gliela nampani, e tu vedrai che in giro di 15 giorni te la mandano direttamente, non c'è bisogno di niente. Adesso controllo a vedere se, se c'è qualcosa nel computer di pronto, capito? Perché è scritto a mano, non riesce a proprio una cosa bellina. Scusa, stai dicendo che scrivo la mano, la scrivi al computer se c'hai la stampante, capito? La scrivi al computer e basta, ma è una semplice comandina, poiché a mano, se uno sa la calligrafia, io grazie a Dio so scrivere, quindi la scrivi bene a stampatello, c'è una bellissima calligrafia, la scrivi a stampatello e gliela mandi così com'è, anzi è più apprezzabile a mano libera che a scritta cosa, capito? Non c'è nessun problema, c'è. Comunque quando vuoi la facciamo, no, non ti preoccupare. Cava cava, andò bene meno, ma io lo so, come da 8 meno un quarto, ma non fino a te da coccarmi, no? Ma io non ho più problemi, ho 20 lì, poi c'è partita domani a mangiare, è tutto acceso qua, tutto. Stavo parlando con voi, ascoltando un altro question, stavo ascoltando i 40 metri, c'ho le V e le U tutte accese, senti qua, siamo ancora tutti in piedi, non hai un problema, fa 20 lì, sono attivo, guarda, dormo la mattina, mi sto alzando alle 9, tranquillo, dopo tanto mi faccio il mio riposino, quindi... Attivo da tutte le parti? Attivo, sempre sotto controllo, tutto attivo ancora, che ora è? Tra un po' mi si spegne un po' di roba e basta. Bombo! A me ho sto per chiudere perché domani si fa lavoro. Scappa. Ma non chiedere quanto arrivo io lì? 5 sì, Anto. Massimiliano? Massimiliano, 9, quasi 15. Certo, ma è buzzito. Anto, ma tu ti rendi conto che antenna c'hai? Ma ti rendi conto? Sto scherzando, sto un po' trovato, insomma. Sto con l'apparecchietto, e conosci, dai. Vabbè, non l'ha mai visto, ma già lo conosci, via. Ma non è quello che sto dicendo, Anto. 4 watt, 5 watt o 10, tu ti ricordi, rendere conto che antenna c'hai, c'hai un'antenna di macchina attaccata al bugiolomi, hai capito? Arrivi bene a tutte le parti. Massimiliano c'ha la mantola sopra il tetto, non c'è un'antenna di macchina, quindi se fai la proporzione, non lo so, sei 9,5 tu con 4 watt senza antenna e Massimiliano è 9,15 con l'antenna con 4 watt, permetti, stai andando anche troppo bene. Ma no, stavo scherzando, lo so che è così, ma di che poco l'antenna io ho che guai. Guarda, io ti do il segnale, tu quando metti l'antenna lì, io te lo do già adesso il segnale, mi arrivi, quando mi arrivi la Gian Maria, 9 più 35. Lo so, è così, il minimo è 9 più 35, o forse anche oltre, dipende, vabbè io forse, non lo so, magari quando faccio l'antenna esagererò un pochettino, ma normale il minimo sarà 9,35, 9,30, così. Perché arrivate a Massimiliano, Antonio? Qua è 8. Hai capito perché arrivi 8 a lui, a me mi arrivi 9,5. Io ti vedo la sopra il tetto, te hai capito? Quindi immaginati di tu, io la sopra il tetto quando lavoro, vedo tutto il la veloce, tutto, dalla zona di Mario il centro di scala aerea, la muove l'antenna. E già arrivo 9.5. E immaginiamo se si può capire per l'antenna. Tu ti giochi 100 euro di scala aerea, 2 ore e fai tutto il lavoro. Boh, è finito. Scappa. E già ho trovato uno, prende 60 euro l'ora, prende per la scala aerea. Scappa. Vabbè, ma non dipende solo da me, no. Ma sì, già, io mi... Già usare la situazione, se non si funziona per me, già fa faccia su. Ho capito, io della sola situazione, ma dico, se non tocchi il tetto, non fai danno, né niente, tanto ti prepari tutto giù, capo, tutto quanto, attaccare un arrigo, cosa hai voi, 10 minuti come, tasse l'attore, tasse lo chimico, e si andate, 10 minuti è piazzato l'antenna. Ma, non dipende solo da me, io adesso. Magari si riesce a convincere una persona, avrei detto anche grazie. Io vedrai che ci riesco a convincere quella persona, tu vedrai. E io ci ero andato, non avevo voglia di cambiarmi e scendere in deposito. Perché sennò la sera che o quando ci vediamo con calma, domenica mattina, tu dovrai vedere che già tanto sta ascoltando. Ora glielo convinco io, avessi le prete monete che ci sono antenna, ma giù con pesce. Non ci vuole niente lì. In un'ora ti faccio il lavoro alla perfezione. Capito? In un'ora, ti pongo tutto in linea anch'io. Tutta l'antenna, cavolo, tutto a posto, tu sei pronto. In un'ora me. Neanche un'ora noi ci mettiamo con l'autoscala, capito? Fatto tutto da un certo dell'autoscala, manco i deuri dopo io. Farli cambiare idea, lascia perdere, sono sostituito io. Vabbè, si tira avanti così, dai. No, perché tu c'è la passione vera proprio la radio, ti piace parlare, fare due chiacchiere, eccetera, capito? Magari lui è un po' seccato, stufato, quindi entra poco, non era tutti nuda, però vuole fare anche per te, capito? Vuole fare anche per te. Perché a te piace un po' di più, sei più presente, quindi giustamente è fastidioso quando siamo magari 4, 5, 6, non così, 3 li senti e 3 non li senti. Oppure tu senti un po' a tutti, a quanto credo, sono gli altri che non sentono a te. E quindi la cosa è tribula, capito? Perciò vorrei capire questo. Andiamo, le faccio io le chiacchiere con Pierpaolo. Vero, Massimiliano? Positivo, e vabbè, è una situazione un po' strana lì, là. E vabbè, anzi, tanto non ti vuoi lamentare, ma un'antenna di macchina che fai, arrivi in volatore a parte, non ti puoi lamentare. È un casino, boh, signore Pelle, dai, io ti abbandono adesso, dai, vado un po' a mettermi nel letto, guardare un po' di televisione, tanto ancora non bisogna giugheni, sì, mezzanotte, ancora un'altra mezz'oretta, mi guardo un po' di TV e poi mi suona la sveglia alle 5. Dai, buonanotte ai rispettivi QRA e ci sentiamo, dai, alle prossime. Ciao. Ma buonanotte, Massimiliano, volevo dire solo una cosa veloce. Non è tanto quanto neanche per quello, no? È certo che qua si vedono con l'autoscala, anzi non esce la ghiaccia in ambonte, capisco, poi tocca a farrarsi, a dire male parole, cosa, e non è periodo, hai capito? Tocca ai cicli mari, no, che succede un casino. Già lo so, ma tu per quello l'avvisi e glielo dici, guarda che io tale giorno vengo con l'autoscala, giusto proprio per non rompere il tetto, non devo scendere, io lavoro da sopra il cestello, le dici, devo piantarmi l'antenna, boh, e si finisce tutto il discorso. L'avvisi già e vedi un po' cosa ti dice, no? Ok, dai, vi saluto di nuovo. Ciao Cla, buonasera, ciao Antonio, tutti quegli ascoltoni, ciao Pierpaolo, già lo so, stai ascoltando, quasi giù che ne muro al computer. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte Massimiliano. Guarda, è incoraggiante, voi non potete neanche capire qua. Si parte sangue amaro e basta, e dire le male parole. Soprattutto non sono periodi di fare qua. Per il momento basta così. Avanti qua. Vabbè, sono cose che un po' fastidiose. Ciao Massimiliano, un abbraccio, saluti a casa e un bacio a Gaia. È un po' più di presenza qua, vediamo di farci sentire un po' di più questo cacchio di canale 10, vediamo di animare un po' di più la situazione. Ok, e niente, vai, ci aggiorniamo comunque. Se sarei a essere avvisami. Calogero, K, domani non credo, e oggi ho fatto la commissione, domani non credo di salire, dopodomani sicuro al 100%. Io quando posso entro, quando posso farmi una chiacchierata, 10 minuti, già lo sai meglio di me, che una chiacchierata mi piace farmela, però mi piace anche non scattiare, meglio usare. Andami, là, buonanotte, che adesso vado a vedere se c'è dove di farle. Ehi, ehi, scattiamo, non c'è problema, va bene così. Guarda, così ci facciamo una rullata di 48 domani, se entri. Facciamo un po' di bordello. Ciao Massimiliano, buonanotte. Tanto chiudo anch'io, vai, che è mezzanotte, vado a vedermi un po' di TV, eccetera, eccetera, tanto stavo chiudendo tutto. Buonanotte e ci aggiorniamo. Se sei in giro in macchina domani chiama qua sul canale, già sono in agguato, ok? Da capa. Tutti i giorni sono in giro in macchina. Ok, claro, non c'è problema, allora ti chiamo. Perché è già che ti chiamo. Quando hai tempo vieni a trovarmi. Già non sai dove sono. Basta chiamarmi, se sono lì già, questo mi scrive. Va bene, sarà fatto ancora. Buonanotte e ci sentiamo domani. Ciao.